Poi vorrei rivedere un tramonto, guardarti negli occhi, scavarti più a fondo perché non ti sento più, sei la fine del mondo, ma anche l'inizio. Dentro ogni tuo silenzio sento l'urlo di...